I think I go, questo è il cammino di Gigi D'Agostino. È necessario che il tuo tesoro sia ritrovato affinché tutto ciò che hai scoperto durante il cammino possa avere un significato. L'alchimista Paolo Coelho, quello che scrive. Mercoledì sera, ore 22:30. Discoteca Continental. A Colico, in provincia di Lecco. È giusto? Il cammino di Gigi D'Agostino e oggi va un po' dappertutto.

Il momento è tremendo. Necessario che il tuo tesoro sia ritrovato. Ah, l'ho già detto questa cosa. E ne dico un'altra. Per il resto della vita, se pure questa, ho detto anche questa qua. Passione. Pure questa. Minchia, le ho lette tutte. E allora aspetta. E no, perché ce ne sono un po', molto. Sono forti, sono profonde. Questa, ecco, ce n'è una sull'egoismo che è precisa. Minchia l'egoismo. A causa del nostro egoismo saremo condannati alle peggiori sofferenze che inventiamo per noi stessi. Brida. Paolo Coelho che scrive. Quello lì. Non riesco, non so dire.